Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Reach out of space. Io ho attraversato la notte questa mattina, ma quanto è bello uscire dal buio. Ho camminato sotto i portici, sono passato davanti alla sezione del PD Esquilino chiusa, sono passato davanti a Casa Pound con la bandiera, ho salutato i quattro barboni e sono venuto qui. Kafka si guarderebbe allo specchio e direbbe: cimici, calpestate senza dignità! Io sono contro la specializzazione, preferisco saper fare 10 cose male piuttosto che una bene. Complimenti per la trasmissione, complimenti soprattutto a Giannino che condivido. Come soprattutto a Giannino? Lorenzo, mi fate un ragazzo subito. Buongiorno a tutti, buongiorno Oscar e tutti. La cosa, ma perché salutate solo Oscar? È il vostro idolo! Io sono pazzo in gelosia. Purtroppo lo sento da anni, mi ha devastato. Mi ha devastato? Sì. Cane e gatto è un amore odio, sono due poli che... Guardi, solo amore. E l'eterna cosa di dire italiani: e su, approfittiamone, dai, e su, e nel cervoto, e che siamo amici. No, è questo il problema. Dov'è Briatore? Non riesco a capire come si possa vivere con difficoltà. E lo stipendio minimo a Monte Carlo è 2000 euro al mese, non c'è niente da fare. Reach out and touch me. Eccoci, popolo di Giasvegli, buongiorno. Siamo anche questa mattina, siamo desti per lavorare, per produrre. Siamo l'Italia che produce. E anche questa mattina accade di tutto, ragazzi. Dalla panchina del Milan che traballa, alla panchina della Raggi che traballa, alla panchina del governo che traballa, e traballa tutto. Allora saluto oggi il viatico in questa mattinata con me, il viatico, il compagno di strada, il Virgilio che ci attraversa nel labirinto, che ci guida nel labirinto della politica e del costume, è Gigi Crespi. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo, e via. Già sveglio? Bellissimo, assolutamente. No, dalla voce non si direbbe però. No, cioè, la voce è bella impastata. Anche perché non è neanche fatto in tempo a bere il caffè. Ecco, quindi siamo qua pronti, svegli. Allora, Crespi è tante cose nella sua storia, è uno studioso della politica, è stato in tempi remoti un sondaggista, adesso anima un'esperienza che si chiama la Fabbrica dei Leader, ci siamo conosciuti bene lì, e la cosa interessante è che insegna, diciamo, come si può diventare leader non solo nella politica ma nella vita. Però ovviamente io gli chiederò il giudizio sui leader di oggi, per esempio, che ne so, il comizio della Meloni. Con quella frase in cui lei dice: diranno che sono nana, che sono bassa, che sono... è un boomerang o una forza esporre la propria debolezza? Intanto essere svegliati da persona Jesus significa parlare del più grande leader, del più grande comunicatore della storia. Pensavo i Depeche Mode, invece Gesù, beh certo. No, è proprio uno dei pezzi cult, un risveglio diciamo quasi mistico, visto che oggi riprende il cammino questo tour che stiamo facendo con la Fabbrica dei Leader in giro per l'Italia, proprio da Palermo, che è un'altra città mistica, a parlare della Meloni mi devi consentire di resettare, perché ho visto quel comizio. Lei è, da un punto di vista della capacità comunicativa comiziale, una delle più brave tecnicamente, non entrando nel contenuto proprio. Il contenuto è talmente variabile per cui non me ne occupo, voglio dire. Io credo che ci sia un giudizio. Bene, no, andiamo proprio sul giudizio tecnico. Estetico, tecnico, diciamo, e la capacità di comunicare è una competenza, è un'arte che sicuramente la Meloni ha, è una dei più bravi. L'unico difetto che secondo me ha la Meloni è dovrebbe lavorare come lavorò a suo tempo la Thatcher sulla voce, il tono, il timbro. Ah, perché la Thatcher cambiò timbro vocalico? La Thatcher lavorò moltissimo sul suo respiro, poi lavorò moltissimo sulla sua voce. Inizialmente ci sono delle prove, aveva una voce stridula, molto alta, fastidiosa, che toccava i nervi, e lavorò per abbassare questo tono, renderlo più meno querulo. Allora sentiamo quel frammento che ogni tanto rimandiamo. Diranno che non possiamo arrivare alla presidenza del Consiglio, che io sono una donna, che sono troppo giovane anche se ormai sono una carampana, che in ogni caso anche quando diventerò vecchia sono troppo bassa, che sono comunque troppo mamma, che sono troppo di destra, che Fratelli d'Italia è un partito troppo piccolo. E addirittura l'inno sotto montato per dare questa idea, pare che sia ha spopolato, noi ogni tanto lo mettiamo perché è divertente. Allora, abbiamo detto una battuta sulla Meloni, volevo sentire un altro leader a sinistra, che ne so, Pisapia, com'è? Che oggi è insidiato, sì, perché oggi una delle notizie di oggi è che nel sismografo della politica è emerso un concorrente di Pisapia per la sinistra che sarebbe il presidente del Senato Grasso. È andato alla festa di MDP, ha detto ero un ragazzo di sinistra, ma lo sentiamo subito, sono un ragazzo di sinistra, e tutti i retroscena di oggi dicono che traballando Pisapia potrebbe essere lui l'uomo nuovo che guida la pattuglia bersaniana e dintorni. Siccome mi sento uomo di sinistra, anzi ragazzo di sinistra, perché quando ricordo bene quando abbiamo avuto con Pierluigi Bersani la nostra presentazione, quando fui presentato come candidato, ecco, ho tirato fuori questo ragazzo di sinistra che era in me da sempre. Una volta che lui mi ha proposto di venire in politica è venuto fuori e io sono rimasto e sono ragazzo di sinistra. Ragazzo di sinistra, può essere un leader? Era con Falcone, con Borsellino. Ha sicuramente un curriculum suggestivo. Leader è colui che riesce, rappresentando, parlando, a unire. Deve avere un popolo. Esatto, che vanno anche oltre la propria parte politica. Di avere una forza evocativa, certo, ho capito. Questo, secondo lei, questo straccio è molto carino. Una retorica simpatica, però, secondo me, un leader deve avere caratteristiche diverse. Magari cresce col tempo. Benissimo, a 60 anni può crescere. Benissimo. Allora, partiamo dal fritto misto. Siamo il Movimento 5 Stelle, noi ci fidiamo della magistratura. Il sindaco di Bagheria si è autosospeso, perfetto, perché c'erano delle situazioni che in quel caso meritavano un'autosospensione. Quando arrivò l'avviso di garanzia a Filippo Nogarin per l'AMPS, noi avevamo avuto la stessa condotta, che era quella che ci siamo sempre che abbiamo sempre rivendicato. Avrete riconosciuto la voce di Bonafede, l'altra notizia del giorno che commenta questo parlamentare del Movimento 5 Stelle è la vicenda di Virginia Raggi. Poi vi dirò la mia opinione, ma ovviamente domina le pagine di tutti i giornali. Lui cita il presidente di Nogarin, i 5 Stelle esultano perché un reato li hanno tolto, per l'altro va a processo, c'è grande battaglia sui giornali. Però sentite Michela De Biase, capo del gruppo del PD a Roma, moglie del ministro Franceschini, che cosa pensa sul codice etico dei 5 Stelle? Mi pare che il codice etico del Movimento 5 Stelle sia stato modificato ad uso e consumo del sindaco Raggi. Abbiamo visto un post Facebook dove è tutto bello bellissimo, noi consiglieremo al sindaco di rimanere con i piedi piantati per terra e occuparsi di Roma. E lo sapete, il tormentone, non passa giorno che il PD non cambia o posizione o non confligge sullo Ius Soli. Tant'è vero, ieri l'abbiamo chiamato lo Ius Boschi perché la Boschi chiudeva lo Ius Soli, e adesso c'è lo Ius Graziani, quello lì del Rio. Gentiloni ha detto che l'autunno era il periodo decisivo, quindi attendiamo l'autunno appena iniziato. L'inverno non è ancora arrivato, in sostanza. Bene, in tutti i sensi. Capito, l'inverno non è ancora arrivato. Sembrano quelle le parole d'ordine dei film, delle invasioni in codice. L'inverno non è ancora arrivato, l'inverno non è ancora arrivato, ma al Trullo è arrivata una nuova guerriglia. A schifo! A schifo! A merda! Te la devi coprire la faccia. Una famiglia italiana di origine somala aveva ottenuto una casa popolare, ci sono state le barricate, agenti feriti, esponenti di Forza Nuova in stato di fermo e insomma guerriglia a Roma ancora sul tema degli immigrati, della casa. Però la grande notizia, ve l'ho detto, è quella di questa strana coincidenza: traballa la panchina del Milan e sembra che la squadra si prepari come una pista di atterraggio al ritorno eccellente in patria di Carlo Ancelotti, esonerato proprio in questo momento dal Bayern. I thought that we could win and it's true that a lot of great players were on the bench, but this is the life of the top club. This is my job. This is my job. Fantastico. Poi sentire Carletto, Emiliano Romagnolo, trapiantato a Roma, e parla questo splendido inglese cosmopolita, mette veramente molto molto ottimismo. Allora, è morto il patron di Playboy, Hafner, e Amanda Lear lo ricorda così. Per l'America puritana Playboy era una novità, poi è stato copiato, imitato da tante altre riviste, poi la ragazza oggetto, sa, vestita da coniglietta, tutto questo, se ci ripensi adesso, oggi d'oggi, è umiliante per la donna essere trattata così come una con coniglio, però allora la cosa divertiva molto. Crespi, le conigliette umiliavano le donne o le umiliano? Questo è un bel dibattito, eh? Guarda, adesso tu passi dalla capacità retorica del discorso in questo excursus estremamente vitale a un'altra parola che è fondamentale nella comunicazione: la sua rappresentazione e la coerenza. Ecco, il padrone di Playboy è uno che è stato coerente a se stesso al di là dei tempi che l'hanno predestato. In questi pochi minuti abbiamo visto rappresentazioni in cui la coerenza la ritroviamo purtroppo solo nelle conigliette di Playboy. Addirittura sono l'unica cosa coerente sono le conigliette, ma non umiliano la donna. Ho parlato fino adesso, sì, direi, no? Però è curioso che Amanda Lear dica che umiliano le donne le conigliette, no? Beh, insomma, non sono una rappresentazione in cui una donna. Sì, ma c'era il gioco, c'era il vaudeville, c'era lo spettacolo, non era. Ma il gioco è bello finché corto. E poi ci sono, certo, questo è durato 50 anni, sì, in effetti. Questo, insomma, è una roba che dopo un po', diciamo. Insomma, per mia figlia che ha 20 anni, se vi parlo delle conigliette, giustamente mi sputa in un occhio, ma è un fatto, diciamo, legato ai tempi. Però, insomma, il padrone di Playboy è un uomo che è sempre stato coerente con se stesso. Che non sempre è una dote. Devo fermarci, no, dote. Dobbiamo fermarci un attimo perché 6, 45, 35 secondi è giunto il momento delle strade. Facciamo un'avvertenza sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. La mattina alle 5 ho già governato le vacche giù la stalla. Sto anche a preparare un po' di zappe da 7 kg, eh. Spero che prima o poi le faremo adovrare i nostri politici tanto simpatici. Ciao Telese, ciao. Sono sveglia perché sono vecchia e come tutti i vecchi dormo poco e cerco di riempire queste ore in più con la rilettura. Adesso sto rileggendo la Divina Commedia, per esempio. Buongiorno, io sono già sveglio per guadagnare 850 euro al mese, quindi io riesco a vivere con 850 euro al mese, mio caro Briatore. Sono già sveglio perché sono arrabbiato. La baracca della nonnina è terremotata perché ci manca una firma, la vogliono demolire. È proprio vero che questo è un governo canaglia che va contro gli italiani. Stamattina ero già sveglia perché mio partner fa i turni e perché penso e spero di essere rimasta incinta stanotte. Ma questa è poesia! È poesia! Non so se Gigi Crespi coglie proprio l'affresco mitico di queste rappresentazioni dell'Italia che si sveglia. Il più bello ovviamente è, insomma, è il nostro contadino che prepara le zappe da 7 kg per i politici. È veramente il nostro ascoltatore prediletto già dai tempi dall'era Milan e siamo contenti di portarcelo in dote. Però questa cosa della notte della gravidanza è meravigliosa. Poetica. Sì. E invece tu ti sei svegliato perché la sveglia ha suonato. Perché l'avevamo svegliato. Cioè, non avrei avuto nessun motivo al mondo per svegliarmi a questo, però l'ho fatto volentieri. Un piccolo sacrificio. 349-238-6666 per i vostri sms che già iniziano a scorrere, alcune volte con interrogativi strani. Mi chiedevo, non è che per caso Guido Gentili sia diventato direttore grazie alla sua parentela con la regina dell'etere Veronica Gentili? Questo secondo me Simone scherza, ma molti sono convinti che la nostra Cruciani sia una figlia legittima di Cruciani, invece non c'entra niente, e che Veronica Gentili abbia una parentela con Guido invece neanche alla lontana. Sono i dubbi che ci sono, così come un altro ascoltatore che ora si lamenta e dice: ah, ma quale semifinale? Non ho mai parlato di semifinale su Ancelotti, ho solo detto che è saltata la sua panchina, traballa l'altra e qui ci può essere un gioco di liane un po' alla Tarzan. È una delle notizie del giorno. E Crespi, il calcio ti avvince? Questa cosa che potrebbe tornare Ancelotti è una delle cose che ti accompagneranno nella giornata come pensiero ricorrente? No. Ma proprio, cioè, come posso dire? Non me ne può fregare di meno. Cioè, è proprio una roba che non sapevo di questa tragedia che stava compiendo. Questo vuol dire essere sconnessi proprio dal paese reale. Non si può essere connessi con tutti, però. Volevo commentare con te invece proprio al volo questa cosa incredibile. Le notizie della settimana arrivano come arrivano casualmente, ma a volte disegnano delle traiettorie. Quindi noi abbiamo iniziato la settimana scorsa con la notizia di quello che si era fregato 15.000 euro, era stato licenziato e il giudice del lavoro ha detto: no, ci avete messo troppo tempo a licenziarlo. Lui è rimasto turbato da questa e lo ha reintegrato, meraviglioso. E invece ieri la notizia, ma dickensiana, tremenda, della donna che lavora, fra l'altro di origine straniera, povera, con un bambino a carico, che lavora in una ditta di smaltimento di rifiuti, in una diciamo municipalizzata, che ha preso dai rifiuti, prima che andassero nel tritovagliatore, un triciclo e ha regalato al suo bambino, e anche lei è stata licenziata. Ma che morale dobbiamo trarre sul mercato del lavoro, sull'Italia, su questo paese di pazzi? Cimici, calpestate senza dignità! Questa è la morale di Giannino, caro Crespi, non riuscirai a superarlo. No, non riesco a superarlo, anche perché se il racconto dei fatti a volte diventa surreale, paradossale, e io credo che ci sia spessissimo la volontà di rappresentare il peggio di una società e di comunità che non vanno più decisamente in una direzione che sia comprensibile. Ma chi dei due ha sbagliato? Chi dei due ha sbagliato? Guarda, subito, giudichiamo. Guarda, ma non c'è dubbio che l'errore è non essere capaci di rappresentare un sentimento comune, qualcosa che sia comprensibile. Cioè applicano la legge. Non sono comprensibili. Scatta il vaffanculo, non so se mi spiego. No, sei spiegato molto bene. Scatta il distacco dalle istituzioni, dai suoi valori, da un'idea di comunità, dall'idea di istituzioni. Cioè queste notizie che però diciamo non sono completamente la realtà, sono una parte della realtà, credo che siano, che debbano essere punite, debbano essere inseguite, cioè gli coloro che permettono che queste cose avvengano sono dei terroristi, non so se mi spiego. Sono no, spieghi molto bene. Senti un nuovo leader che sicuramente comunica bene, a prescindere da cosa vi pensa del contenuto. È arrivato Gino Strada, che continua a battere su Minniti, e ieri ne ha detta una pazzesca. Il poliziotto corrotto e cinico che di solito usa del suo potere contro i più deboli non è un'invenzione mia. Però possiamo dire che Minniti sia corrotto, no? No, possiamo corrotto, dire, no, ma figurarsi, no, no, ma figurarsi. Sbirro, che tende a risolvere militarmente in un modo crudele i problemi. Se io prescindo dal fatto che la mia azione politica produce morti e sofferenze, il mio modello sociale diventa Pablo Escobar. Perché se prescindo dal fatto che Pablo Escobar ha ammazzato, ha fatto ammazzare migliaia di persone in Colombia, beh, la sua politica... Quindi, ha prodotto quindi grande strada... sviluppo. Come si dice, la tocca piano, no? Minniti come Pablo Escobar. Non è che ho detto una cosa esagerata, è una cosa normale, no? C'è una stessa analogia. Quello è il capo del male del narcotraffico, quello è il ministro dell'interno, Pablo Escobar. L'uso della parola sbirro è... per me è ancora peggio che Pablo Escobar, che è un'esagerazione proporzionale. A volte Gino Strada fa delle cose meravigliose nella sua vita, ma dice delle cose che sono inascoltabili. Questa che ha detto ieri è francamente inascoltabile. Dice proprio senza se, senza inascoltabile, ma. Inascoltabile. Cioè, definire sbirro come un elemento, diciamo, dispregiativo, sapendo che lì dentro c'è una parte sostanziale e reale che difende le nostre vite, la nostra sicurezza. La definizione di sbirro è una delle cose, secondo me, fatta da un uomo di valore come Gino Strada, totalmente devastante. Molto chiaro. Io credo che 20... non è assolutamente accettabile da un uomo che di fatto nella vita va rispettato per quello che ha fatto, però io non lo rispetto per quello che dice. 29 settembre è il giorno che gli italiani ormai ricordano per questo doppio compleanno bipartisan. Berlusconi e Bersani, facciamo due SMS su questi due leader che continuano a rimanere sulla scena. Bersani prima e poi Berlu. Crespi? Io con gli SMS non, se vuoi ti no no WhatsApp. Due micro editoriali. Sì, ora sono aumentati anche i caratteri, ho sentito un momento. Sì, lo so, possiamo essere più lunghi. Guarda, secondo me in questo caso vale una frase: ciò che dura nel tempo vale per sempre. E quindi? E quindi, cioè, entrambi sono come caratteri. Penso, guarda, i 100 caratteri sono ciò che dura nel tempo, vale per sempre. Perfetto. Punto. E vale per tutti, cioè, e due. Sì. Certo, per entrambi, sono due veterani assoluti. Cioè, di più, non riesco a dire di più. Hai detto abbastanza. Bene. Sono d'accordo. GR, giornale radio, torniamo subito dopo con la rassegna stampa. Ci sono alcune notizie, una ve l'anticipo, veramente va interpretata. Aumenta ancora la ricchezza del 10% delle famiglie più ricche italiane. A fra poco. Ciao papà, sei obeso.